Farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'ora carezzerò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Vuelta. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. Inesina la mandolina. La susurrerà. Comienzo, verso. È bellissima la tua mandolina. Tu sei la più bella del mondo, Inesina. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul blanco tuo vuelo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Cha cha cha. Thank you. La donna è mobile, quale più malvento, muta di accento e di pensiero. Sempre una mobile, legge a provviso, di bianco e grigio e menzognero. La donna è mobile, quale più malvento, muta di accento e di pensiero. E di pensiero. E di pensiero. Sempre misero chi a le si affida, chi le confida, melta del cuore. Ormai non sentesi felice a pieno, che su quel seno non vi fa onore. La donna è mobile, quale più malvento, muta di accento e di pensiero. E di pensiero. E di pensiero. La cosa, la giornata è sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. E bella cosa, la giornata è sole. Ma è nato il sole, più vero in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto a finestra voglio restare, ma non fa notte, o sole se ne scende. Guarda tu sole, più vero in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte. Inés, vamos ahí. bellissima la tua mandolina per lei. Sole scene scene, me viene quasi la malinconia. Sotto a finestra toglia restaria. Quando vanno do sole scene scene, ma era tu sole vero e nere, no sole mio, sta in fronte a te, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Stan from the other. Grazie caro. Come ti vuoi capire chi ti vuoi bene? Se tu le parli mi è americano. Quando se fa l'amore sotto la luna, come ti vieni in campo e di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Siete a me che tu papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu avvali il rock and roll, tu gioca a baseball, ma i sordi peccamel ti devi dare la presenta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, sienta me, non c'è sia niente a fa, ok la pulita. Tu fa l'americano, tu fa l'americano, whisky and soda e rock and roll. Tu fa l'americano, tu fa l'americano, whisky and soda e rock and roll. Tu fa l'americano, tu fa l'americano. Zeffiro così soave, oh come bello stare sulla nave, su passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Fra le tende bandir la cena, in una sera così serena. Chi non dimanda, chi non desia, Santa Lucia, Santa Lucia. Mare si placido, vento si calo, scordar fai triboli al marinaio, e va gridando con allegria, Santa Lucia, Santa Lucia. Inesina è bella. Oh bella Napoli, o suol beato, ove sorridere vuol il creato, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Or che tardate, veda è la sera, spira un'aureta fresca e leggera, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Grazie tante carissimi amici, facciamo volare. Lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh oh oh oh, cantare, oh oh oh oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva negli occhi tuoi blu. la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh oh oh oh, cantare, wow wow wow wow, wow wow wow wow, nel blu, dipinto di blu, oh oh oh oh, felice di stare lassù, oh oh oh oh, nel blu, dipinto di blu, oh oh oh oh, felice di stare lassù con te. Amore me teneva incatenato, mi ha detto basta e me son liberato. Me pare che io turchino cielo, me pare che io lucentio sole, e io me sto gustando a libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che a me vola sa. Se crede che a me faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi me sparo. Che la la, che la la, non sape che piacere che a me fa. Me ne trovo un'altra più bella e se te la resterà. Che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, mo va dicendo che a me vola sa. Se crede che a me faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi me sparo. Che la la, che la la, che la la, non sa che piacere che me fa. E ne trovo un'altra più bella e se te la resterà. Che la la, che la la, sol che la la. Ieri mi ha mandato il biglietto, ma figlia da portiera per il peggio. Ma ci riga non è felice, e cavolo come fa pace. E io mi sto gustando a libertà. Che la la, che la la, che la la, lo va dicendo che a me vola sa. Se crede che a me faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi me sparo. Che la la, che la la, non sa che piacere che a me fa. Me ne trovo andata più bella e se te la resterà. Che la la, che la la, che la la, Inesina. Non sape che piacere che me fa. Me ne trovo un'altra più bella e se te la resterà. Che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la. días del arco iris para todos. Gracias. Verano y giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno e con gli occhi la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte s'accese di mille colori, tristezza sull'erba come una che sogna. Tu eri bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso vives más grande di più, sei diventata più forte e sicura, e già iniziata la dolce avventura. Ormai solo bambine mie amiche di prima si riuniscono in gruppo a giocare e sognano ancora un raggio di luna. Vivi la vita come una importante, perché a 16 anni ti senti già grande, ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Tu adesso vives más grande di più, sei diventata più forte e sicura, hai iniziato l'avventura. Ormai solo bambine, mie amiche di prima, si riuniscono in gruppo a giocare e sognano ancora un raggio di luna, un raggio di luna. Gracias a todos, gracias. Pueblo mío que estás en la colina, sentado como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mañana se verá y será, será lo que será. Mis amigos ya se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. Todos, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo.